Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una donna e il suo amante vogliono uccidere il marito di lei. L'amante della donna è il fratello del marito. Tutto questo viene osservato e narrato da un punto di vista particolare, il feto che la donna, quasi al termine della gravidanza, porta in grembo. È la trama dell'ultimo romanzo dell'inglese Ian McEwan, Nel guscio, pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso. McEwan è autore di romanzi come Cortesia per gli ospiti, Bambini nel tempo, L'amore fatale, Espiazione, Miele, alcuni dei quali sono anche diventati film. Del nuovo romanzo, Nel guscio appunto, McEwan ci aveva parlato tempo fa al cacciatore di libri prima che fosse appunto pubblicato. Potete ritrovare l'intervista su radio24.it. Ora però che è stato pubblicato possiamo scendere nei dettagli. La voce narrante, dicevamo, è il feto. Un feto che ha già la sua personalità e per alcuni aspetti la sua concezione del mondo. Si rende conto che la madre Trudy e suo zio Claude, amante della donna, vogliono uccidere suo padre, ma è impotente, chiuso com'è appunto nel grembo materno, non può fare nulla per evitarlo. Il romanzo è un po' un noir, un po' un gioco di prestigio, un gioco di specchi ed è anche un romanzo pieno di riflessioni filosofiche sulla vita e sugli esseri umani. Abbiamo incontrato Ian McEwan in occasione del premio letterario Bottery Lattes Grinzane, assegnato allo scrittore inglese per la sezione La Quercia, una sorta di premio alla carriera. Ecco com'è nata in lui l'idea di raccontare la storia dal punto di vista del feto. Sentiamo McEwan con la traduzione di Raul Resta. It began when I was sitting talking with my daughter-in-law who was pregnant with her first baby. L'idea mi è venuta quando parlavo con mia nuora, che all'epoca era incinta del suo primo figlio. Adesso è una bambina di 3 anni. Quindi parlavamo, lei aveva questo enorme pancione e c'era questo bambino dentro. E quindi mi è venuto da pensare che c'era un individuo in questa stanza di cui non sapevamo niente, che apparentemente neanche lui sapeva nulla. Allora ho scritto un appunto sul mio quaderno, sul mio libricino degli appunti, e ho avvertito la presenza di questa voce, una voce assolutamente fantastica che tutto sa, tutto capisce e riesce a speculare sul mondo che lo ospiterà. Infatti la cosa che mi ha colpito di questa voce narrante è che il feto è estremamente consapevole, ha un modo di ragionare adulto, usa il sarcasmo, anche una punta di ironia, ma nello stesso tempo sembra sprovveduto per alcune cose. Come ha fatto a mantenere questo equilibrio? I spend a lot of time at the beginning of this novel trying to get this balance, this voice. Ho impiegato molto tempo a cercare di mantenere questo equilibrio, l'equilibrio appunto dettato da questa voce, ma è come ideare un personaggio di un romanzo. Si comincia dalle cose più piccole e pian piano si costruisce un'identità. E prima che tu te ne renda conto, c'è un'identità nuova. E il romanzo comincia a scriversi da solo, più che altro la vita del personaggio nel romanzo comincia a scriversi da sola. Ti rendi conto che questa identità è capace di pensare, è capace di agire. Sono molte le identità che mi hanno accompagnato nel mio lavoro di scrittore e che venivano dal nulla in un certo senso. Quindi sì, bisogna concentrarsi sui dettagli, anche più piccoli, anche quelli che sembrano irrilevanti. All'inizio non si ha idea di cosa si sta creando e poi alla fine del libro si ha un'idea ben chiara di quello che si è fatto. Questo ci insegna qualcosa? Sì, ci insegna a scrivere quel dato romanzo, ma non ci dà indicazioni per la scrittura del prossimo. This novel, it doesn't teach you how to write the next novel. A proposito di ironia e sarcasmo, nei suoi romanzi a volte dice delle cose anche terribili, insomma, delle cose molto dure. In questo caso il feto vede, sa che la madre e lo zio stanno progettando l'omicidio di suo padre, però riesce comunque a usare una certa ironia. Cos'è? Serve a stemperare la durezza di alcune cose o è la sua lente di ingrandimento sul mondo? Well, this is a murder plot derived entirely from Hamlet, and so just as Hamlet is unable to act. Sì, questa è una trama moderna che si ispira ad Amleto. E così come Amleto è impossibilitato dai suoi pensieri ad agire, allo stesso modo il feto, il protagonista di Nel guscio, è limitato dalle circostanze della sua situazione. Non può agire. tant'è che suo padre infatti viene ucciso. L'ironia in tutto questo è qualcosa di remoto. L'omicidio è reale, ma totalmente letterario. L'omicidio praticamente si rifà a una famosa opera teatrale. È quasi la morte della letteratura. Quindi tutto questo è un gioco a cui mi piace giocare. Questo mi riporta alla mente quando sono andato negli Stati Uniti appunto per promuovere il libro e mi veniva chiesto dai giornalisti se questo libro era un libro antiabortista, anche perché la questione dell'aborto è una questione centrale per quanto riguarda la moralità americana. È interessante notare come in Europa nessuno mi abbia mai fatto questo tipo di domanda, quindi è anche divertente vedere come un romanzo agisce in diversi contesti. Come rispondevo io a questa domanda quando mi veniva fatta negli Stati Uniti? Ma dicevo che sicuramente io sono contrario all'aborto perpetrato alla fine della gravidanza, quando il feto era mai completo. Quindi anche le leggi più liberali riguardo l'aborto dovrebbero impedire un certo tipo di atto. Ma poi sottolineavo sempre il fatto che questo non è un libro sulle politiche sociali, assolutamente no. È un prodotto di fantasia. Da lì arriva l'ironia. A fantasy. And out of that fantasy comes the irony. Non è un romanzo sicuramente di politica sociale, però insomma ci sono alcune visioni politiche che vengono date, per esempio quando il feto ascolta il podcast di una conduttrice radiofonica o di un'esperta di politica che dà la sua visione del mondo. Insomma, si è divertito a mettere un po' anche la visione del mondo di Ian McEwan? More or less, yes. It's a great opportunity just to stuff your character with some of your own thoughts. Sì, più o meno. Comunque la letteratura ti dà la grande opportunità di farcire i tuoi personaggi con i tuoi pensieri. Il mio feto non sapeva nulla di Trump, non sapeva nulla della Brexit. Si tratta di un bambino pre-Brexit e pre-Trump. Allora era già preoccupato del mondo. Se fosse nato dopo, lo sarebbe stato molto di più. He was worried about the world then, he'd be much more worried now, I think. A proposito di visione della vita, sul pessimismo lei scrive: il pessimismo è una scelta troppo facile, per non dire deliziosa, stemma e cimitero di intellettuali di ogni latitudine. Assolve le classi dei pensatori dal compito di trovare soluzioni. È la sua visione del pessimismo? Yes, I think that pessimism is the badge that intellectuals wear so proudly. I find myself doing it. Direi di sì, il pessimismo è una medaglia, una spilla che gli intellettuali indossano orgogliosamente. Infatti questo è il motivo per cui molto spesso gradisco più la compagnia degli scienziati rispetto a quella degli umanisti. Gli scienziati, quando vedono un problema, cercano una soluzione. Gli umanisti sono talmente esaltati da se stesso che nella loro visione del mondo non c'è mai soluzione. Anche riguardo la politica, sicuramente ci sono dei politici che cercano di migliorare il mondo e lo fanno in maniera genuina, in maniera reale, in maniera spontanea, ma devono scontrarsi contro gli intellettuali provenienti dal mondo della cultura, che smonteranno ogni loro azione perché non abbastanza sincera, non diretta nella giusta direzione, non abbastanza completa. Gli intellettuali non hanno fiducia nelle soluzioni. E poi diciamocelo, il pessimismo è delizioso, è come un barattolo di ottimi funghi forcini con dell'olio d'oliva della migliore qualità. Ci si può farcire di pessimismo ed è quello che bene o male noi intellettuali facciamo. A bowl of recently picked porcini with the best olive oil, and you can stuff yourself with pessimism. I gave these thoughts to my little fellow. Lo sguardo del feto nei confronti della madre è uno sguardo incantato, chiaramente adorante, però non esclude il giudizio. A un certo punto il feto arriva a dire: so essere spietato anch'io, stai attenta, è quasi un avvertimento. Come vive il feto questo conflitto? Well, in order to complete his isolation, he suffers. Per completare il suo isolamento, il feto appunto soffre della mancanza di attenzione sia da parte del padre che della madre. e questo era il mio metodo, la metodologia che io ho applicato per avere, per creare così un eroe puramente esistenziale. Lui sa che è destinato ad amare sua madre e ad amare suo padre, ma non è ricambiato, ma ha un proposito. Appena nascerà, guarderà negli occhi sua madre e lei non avrà più via di scampo, sarà legata a lui per sempre, ma non sappiamo se questo funzionerà. That's his plan. We never know if it works. We'll never know. Con questo romanzo lei spinge il lettore, insomma, ad affidarsi totalmente alle sue parole, perché è chiaramente un romanzo sì di fiction, ma anche un po' fantastico, diciamo così. Ha lasciato, diciamo, il suo tradizionale realismo. Cos'è questa? Una parentesi, una fuga, una gita, o è l'inizio di un nuovo percorso letterario per lei? It felt like a day trip. It felt like a holiday, in fact, more than a day. I can't quite tell the thing I'm writing now. Più che una gita di un giorno è una vacanza che mi sono preso, quindi qualcosa di più consistente. Ora sto già scrivendo qualcosa di nuovo, ne ho scritto un terzo o un quarto, e sto lottando tra questa doppia visione. Sto cercando di scrivere qualcosa che è fattibile, cioè che è plausibile, ma non proprio. Quindi non mi piace in realtà molto parlare di quello che sto scrivendo al momento, però posso dire che questo libro è un'opera di fantascienza ambientata in un recente passato. È qualcosa di impossibile, che ci sembra impossibile, ma che in realtà la tecnologia moderna rende fattibile. Quindi sto lottando con due mondi allo stesso tempo e non so cosa ne verrà fuori. Quello che posso dire è che il mondo attuale è talmente interessante che negarlo o ignorarlo sarebbe come rinunciare alla bellezza. World is so interesting at the moment, to drift off into too much fantasy would be a dereliction of duty. E questo era Ian McEwan che ci ha parlato del suo ultimo romanzo Nel guscio, pubblicato in Italia da Einaudi. Come già detto, McEwan è stato in Italia per ritirare il premio internazionale Bottari Lattes Grinzane, che di fatto ha preso il posto del vecchio premio Grinzane Cavour, che era stato travolto dagli scandali. Il nuovo premio è arrivato alla 7ª edizione, anche una sezione dedicata alla scoperta di nuovi autori, la sezione Il Germoglio. Quest'anno il riconoscimento è andato al francese Laurent Mavigné con il libro Intorno al mondo, pubblicato in Italia da Feltrinelli. La scelta finale viene fatta da una giuria di 400 studenti delle scuole superiori di varie parti d'Italia. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. È una delle scrittrici più amate dagli adolescenti di tutto il mondo. Jennifer Niven, americana, è un'autrice culto del genere young adult, insomma, per intenderci, i romanzi per giovani adulti. È diventata famosa con Raccontami di un giorno perfetto, romanzo in cui si parla di depressione, disturbo bipolare, addirittura anche di suicidio. C'è la giovane Violet che ritrova la voglia di vivere grazie a Finch, un adolescente in grande crisi. L'universo nei tuoi occhi è il nuovo romanzo di Jennifer Niven, pubblicato in Italia da Dea con la traduzione di Simona Mambrini. Anche in questo caso la Niven affronta una storia di adolescenti problematici, senza alcuna censura. La sua caratteristica infatti è quella di affrontare sempre questioni spinose, ma purtroppo familiari per i teenager. Rapidamente la trama è l'incontro fra Libby, un passato da bambina obesa, e Jack, che soffre di prosopagnosia, un disturbo neurologico che porta a non riconoscere i volti delle persone, come spiega la stessa Jennifer Niven con la traduzione in presa diretta di Giuditta De Concini. Questo significa che lui ha una cecità relativa al riconoscimento dei visi. Addirittura Jack non riesce a riconoscere neppure i visi delle persone a lui più vicine. E come reagisce a questo suo disturbo? Come gli cambia il carattere? Jack si ritira, diventa più introspettivo, anche se invece esteriormente cerca di essere estremamente estroverso e compensa con la seduttività, con la seduzione, perché sta cercando di nascondere a tutti questo suo disturbo. È molto preoccupato, infatti, di poter diventare un bersaglio del bullismo in caso nella sua scuola si venisse a sapere che ne soffre. He might become a target for bullying. Jack ha paura di diventare un bersaglio del bullismo, però è a sua volta un bullo, per esempio nei confronti di Libby. Libby si definisce così: mi chiamo Libby Strout, probabilmente avrete già sentito parlare di me, avrete visto il video in cui venivano a salvarmi dalla mia stessa casa. 3 anni fa sono stata l'adolescente più grassa d'America, sono arrivata a pesare quasi 300 kg. Non sono sempre stata grassa. Per farla breve, mia madre è morta e io ho messo su peso. Ma bene o male sono ancora qui. Mio padre non ha nessuna colpa. Ecco, come vive Libby questa sua condizione di ex obesa? Che peso ha nella sua vita? For Libby, it means she has gone through so many struggles in her short life. Nella sua breve vita, Libby ha già attraversato tantissime difficoltà, dalla perdita di sua madre al bullismo non soltanto da parte dei suoi compagni a scuola, ma anche addirittura online, perché come dicevi tu, è diventato virale il video del salvataggio. E quindi in pratica tutto il peggio che le poteva succedere le è già successo. Questo la fa diventare estremamente forte e le fa capire che non c'è nulla che più la possa ferire. She decides nothing really can hurt her anymore because she has lived through all these things. Libby sembra sicuramente forte, anche nella sua descrizione che abbiamo letto prima, si capisce insomma che è una ragazza che ha sofferto e che cerca di andare avanti nella vita, eppure ha ancora tantissime fragilità. Tant'è vero che poco dopo lei dice: domani tornerò a scuola per la prima volta dopo la quinta elementare. Studentessa al terzo anno di liceo, suona molto meglio che adolescente più grassa d'America. Eppure dice: sono terrorizzata da morire, aspetto che arrivi l'attacco di panico. Insomma, c'è ancora tanta fragilità in Libby. Absolutely. I think, you know, like most people who have been through trauma and who have been through struggles. Sì, io credo che lei, come la maggior parte delle persone che hanno attraversato fortissimi traumi, da un lato si sia rafforzata tantissimo, però ha anche delle grandi ansie, delle grandi fragilità, ed è una sorta di equilibrista, fa un buon bilancio tra queste due parti. Fondamentalmente quello che la contraddistinguerà sarà quello che lei sceglierà di fare di se stessa. What she chooses to do with what happens to her is what really makes her as a person, though. Poi nel corso della storia fra Jack e Libby, insomma, si instaurerà un rapporto molto particolare, una relazione particolare. Perché nei suoi romanzi pone sempre l'attenzione sulla fragilità degli adolescenti? I think that they're important to point out because io credo che tantissimi teenager abbiano tante fragilità, siano molto vulnerabili, siano isolati, siano e si sentano soli. E quindi far sapere che non è così, mostrare le fragilità di tutti è estremamente importante, e anche prendere queste fragilità all'interno di una storia e far vedere come si possano trasformare in forza o i punti di forza è un messaggio estremamente positivo e importante, perché questa forza gli adolescenti ce l'hanno già dentro. They can be just as strong and that they are just as strong. Nei libri di Jennifer Niven si affrontano spesso temi spinosi, abbiamo visto il bullismo, ma anche, mi riferisco al precedente romanzo Raccontami di un giorno perfetto, temi come la depressione, l'ansia e soprattutto il suicidio. Nei tuoi libri c'è sempre molta verità, le cose non sono edulcorate, si raccontano così come sono, non c'è il lieto fine, giusto per intenderci. Perché parli agli adolescenti in modo così schietto? E questo, come dire, il segreto anche del successo dei tuoi libri fra i ragazzi. I absolutely feel that we need to be that direct. Sì, io credo proprio che con i giovani noi dobbiamo essere assolutamente diretti, anche perché credo che siano tra i lettori più saggi e intelligenti che abbiamo e meritano quindi di leggere una descrizione realmente onesta di ciò che stanno vivendo. E credo anche che sia importantissimo mettere all'interno delle storie la speranza, e all'interno pur di un quadro assolutamente realistico, ma infondere con la speranza e con il senso di non solitudine queste storie è anche una cosa fondamentale. And also to remind my readers that they are not alone, which is something that so many of them, too many of them, feel. Nel corso, insomma, degli anni avrai incontrato molti dei tuoi lettori. Che cosa ti colpisce delle cose che ti raccontano? Immagino che molti si sono medesimati, insomma, nei racconti, nelle cose che hai raccontato. Hai avuto la sensazione di aver dato anche una mano a qualcuno di loro? Absolutely, I do, and I think the thing that has really taken me the most by surprise is the reader reaction. Sì, sento assolutamente di aver ricevuto un'enorme sorpresa dalla reazione dei lettori, perché chiaramente la scrittura è un'attività estremamente solitaria e quando sei lì che scrivi non sai come verrà poi accolto un libro. Io ora ho la grandissima fortuna di essere in viaggio da 3 anni e mezzo, prima con Raccontami di un giorno perfetto e ora con Holding Up the Universe, il nuovo libro. Ho dei ragazzi che mi abbracciano piangendo. Trovo molto commovente il fatto di aver sentito più volte rivolgermi la frase grazie per avermi salvato la vita, grazie per aver creato questi personaggi che sono diventati i miei migliori amici. Thank you for these characters who are my best friends. Il bullismo è qualcosa che probabilmente è sempre esistito, però si ha la sensazione che negli ultimi anni sia più diffuso e soprattutto la diffusione dei social network sta ampliando anche l'eco che sta avendo il bullismo e anche il modo selvaggio in cui alcune persone, alcuni anche adolescenti, si accaniscono sui loro coetanei. Tu che usi molto i social, come pensi che i social magari possano invece anche aiutare a limitare il fenomeno del bullismo? I do think that that there is a way to use social networks, social media. Sì, io credo che ci sia un modo per utilizzare al meglio e in positivo anche i social network. E quando il mio livello di disperazione rispetto a quello che vedo in termini, ad esempio, di bullismo o di violenza sui network arriva al colmo, allora butto fuori ancora più messaggi positivi. E in particolare nei network che gestisco io, quello che cerco di fare è di creare uno spazio sicuro, uno spazio di sicurezza per i miei lettori, che sia su Twitter, sia su Facebook o su Instagram, che è il mio preferito, è uno spazio in cui i lettori sanno che troveranno soltanto amore, accettazione e positività. E quello che vedo è che spesso i lettori, o comunque gli utenti di questo mio network, diciamo al sicuro, fanno amicizia tra di loro. They often become friends with each other. Questa era Jennifer Niven, ora in libreria con L'universo nei tuoi occhi, pubblicato da Dea. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Filippo Auregi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it cliccando nella sezione Il cacciatore di libri. Se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter e anche sulla pagina ufficiale di Facebook Il cacciatore di libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.